Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Al libro bianco sulla scuola, scritto sotto l'egida dei ministri, l'egida dei ministri Fioroni e Padoa-Schioppa. Permetteteci di aprire questa puntata di Obbligo con la gaffe del ministro Gelmini al Senato giovedì. Del resto sono giornatacce queste per lei e il minimo che possa capitare è di scivolare su un accento. Giornatacce, sì, per lei, a cui il Viminale ha anche assegnato la scorta visto il crescere delle proteste di piazza contro di lei. Proteste naturalmente legittime. Siamo anche convinti che questa scorta non serva. Comunque alla Gelmini tutta la nostra solidarietà. Parliamo un po' di scuola. Volentieri. Sei contento? Sì. Allora, Maria Stella. Giannina. Maria Stella Gelmini, Maria Star. Allora, la Maria Star ha anche taglia nella scuola, maestro unico. Adesso tutta la gente è scesa in piazza. Lei l'altro giorno ha detto: non capisco come mai tutta questa gente in piazza. È Capodanno, sai? Tutti li fanno festa, sai? Maria Stella. Comunque la si pensi, Luciana Littizzetto sa strapparci sempre un sorriso. Ho voluto riproporvi questo pezzo di domenica scorsa, Che tempo che fa, perché se l'avete perso è davvero giusto che lo sentiate. Insomma, proteste degli studenti medi contro il decreto che verrà convertito in legge definitivamente mercoledì in Senato, protesta nelle università contro la legge 133. Impossibile qui raccontarvi bene cosa contiene il decreto e cosa contiene la legge 133, anche se vista la confusione che regna sarebbe davvero più che necessario. Bene sappiate che sul nostro sito ci sono proprio delle schede che spiegano molto bene i contenuti dei due testi, quindi se volete saperne di più, www.radio24.it. Gel, spremiti ancora un po', invece del maestro unico. Gel, però, Gelmini, gel, si spreme, no? Vabbè, capito? Allora, gel, invece del maestro unico, puoi fare di più, mettine uno unicissimo, ne metti uno solo, lo metti a Viterbo, così, e tutti quelli delle elementari vanno lì, capiti? Centro Italia, praticamente, quelli di Brindisi e Cumbrayer dovranno svegliarsi un po' prima, d'altronde, l'economia quel che è, va, così bisogna tagliare, vai negli stadi, capito? Maxi schermi e via, come nelle missioni tra 4 milioni di bambini, usi l'impianto e le casse di Vasco Rossi. Certo, anche in televisione si può fare, maestro in televisione. Un unico, non so, vengono alla lavagna quelli di Sondrio. 2 per 3, 6. Ravenna disturba, fuori! Era ancora la Littizzetto, questa volta sul maestro unico, ma parliamo ora dei più grandi, di quelli che stanno protestando nelle università. Fra i collaboratori della Gelmini c'è Alessandro Schiesaro, oggi ordinario alla Sapienza di Roma dopo tante esperienze all'estero e a Londra. In passato, sempre in tema di scuola, aveva collaborato con il Partito Democratico, quindi la sua opinione è particolarmente interessante. La legge 133 ha due, per quanto riguarda l'università naturalmente, ha due aspetti molto diversi fra di loro. Quello che succede adesso, fra 2008 e 2009, che oggettivamente è molto limitato e molto contenuto, è quello che prospetta per il 2010. Per il 2010 vengono prospettati dei tagli che sono insostenibili. Per il 2009 certamente no, anzi nel 2009 c'è una stretta sul turnover, ma i saldi finanziari non sono particolarmente negativi. Questo significa una cosa molto semplice, che il sistema universitario ha circa 7-8 mesi, cioè sino alla prossima manovra estiva, per elaborare un progetto concreto, credibile, serio di riforma e ricontrattare il 2010. E quindi secondo lei sono motivate o immotivate queste reazioni da parte di studenti, ma anche di molti rettori che parlano di un'università che sta andando al collasso, che andrà al collasso? Nel 2009 quello che può certamente cambiare, dovrebbe probabilmente cambiare, è quello di modulare il blocco del turnover in maniera tale da premiare chi ha gestito bene, chi ha amministrato bene e non premiare invece chi ha gestito male. Un taglio generale per tutti punisce insieme, no, bravi e cattivi, diciamo. Per il 2010 bisogna, secondo me, che le università forse oserei quasi dire per la prima volta, elaborassero un piano di riforme serio, non un piano, diciamo così, gattopardesco. E sappiamo quanto le nostre università abbiano bisogno comunque di riforme che non siano, come dice lei, gattopardesche, o no? Guardi, cioè può essere anche un'occasione questa per le università per ripensarsi un attimo? Io credo che lo spirito sia quello, ecco, si può discutere, diciamo, qual è il modo migliore per persuadere le università a cambiare. Certamente sinora, per essere tutti onesti, non è che ci si sia riusciti molto con nessun altro metodo. A me sembra però, parlando con tanti colleghi di tutti gli orientamenti politici, anche con tanti colleghi rettori, che ci sia una vera determinazione questa volta a trovare delle soluzioni serie e delle soluzioni di lungo periodo, anche perché qui non si tratta di rimediare ai problemi per 6 mesi o per 8 mesi, qua si tratta veramente di rifondare un pochettino un progetto per l'università che abbia un respiro almeno di qualche anno. Ecco. La legge 133 dovrebbe spingere gli Atenei a ripensarsi un attimo, a fare delle riforme in vista di questa spada di Damocle del 2010, possiamo sintetizzare banalmente così? Direi senz'altro di sì, e mi sembra sinceramente che in questo momento moltissimi Atenei avevano già iniziato a fare le riforme anche prima e sono quelli che stanno meglio, anche molti altri mi pare si stiano attrezzando, ci sono stati dei segnali molto positivi da parte della Conferenza dei Rettori, da parte del Consiglio Universitario Nazionale, da tantissime università, mi pare che ci sia un vero spirito di, come dire, questa volta rimboccarsi le maniche e tirare fuori delle proposte concrete. E questo non può che far bene alle nostre università. Lei ha definito il ministro Gelmini innovativa. Mi sembra che il ministro Gelmini abbia molto chiaro il fatto che bisogna assecondare i processi di riforma delle università che già non li hanno avviati e dall'altro magari, come dire, pungolare un po' di più quelle che per ora invece non le hanno avviate e quindi hanno bisogno magari di qualche stimolo ulteriore. Quello che è abbastanza chiaro a tutti e in primo luogo al ministro è che la situazione attuale francamente non è una situazione di cui nessuno possa essere particolarmente felice e soddisfatto, cioè dormire sugli allori non è mai una buona idea, poi se gli allori non ci sono diventa particolarmente difficile. Legge 133 dunque dolorosa ma necessaria. Di tutt'altro parere l'astrofisica Margherita Hack, che si è schierata al fianco dei ragazzi che protestano. Secondo lei l'università è destinata, con la legge 133, al collasso. La fine della ricerca, perché si riduce enormemente il numero dei ricercatori, dei giovani ricercatori che ora sono precari e che saranno costretti a cambiare mestiere o andarsene all'estero, e la ricerca si fa nelle università, la ricerca la fanno i giovani, sono quelli che di solito statisticamente fanno le maggiori scoperte, e senza la ricerca non c'è nemmeno la ricerca applicata, non ci sono le innovazioni, e l'Italia si riduce a un paese nemmeno in via di sviluppo, ma anzi in via di controsviluppo, si va all'indietro invece di andare avanti. Quindi insomma, secondo lei è proprio in pericolo, diciamo, se questa legge, poi è legge la 133, se questo deve restare, questa legge infame, l'università si riduce a un grande liceo, oppure si va alla privatizzazione, e privatizzazione con le fondazioni essendo appunto università private, privilegiano il rendimento immediato, quindi si avranno facilitazioni per quelle materie che portano a degli sviluppi applicativi redditizi. La pura ricerca sarà sacrificata, non solo, ma chi ha soldi potrà iscrivere figli a università private, che sono sempre molto più costose di quelle pubbliche, e chi non ce li ha sarà costretto a frequentare università di serie B. Quindi si crea una discriminazione, si va contro quello che è stato il grande progresso dell'Italia in questi ultimi 60 anni, che hanno portato, come vuole la Costituzione, all'accesso all'università di tutti coloro che sono meritevoli, indipendentemente dalle condizioni della famiglia, del reddito. Quindi lei è anche contraria alla trasformazione degli Atenei, delle università in fondazioni, anche certo, se questo significherebbe attrarre comunque finanziamenti? Attrarre finanziamenti, ma però porterebbe a una discriminazione fra le classi sociali. Quindi, insomma, lei è molto preoccupata, mi sembra di capire. Sì, moltissimo. Per esempio, è preoccupante il taglio degli insegnanti anche alle scuole elementari. Ora, il taglio del numero di insegnanti vuol dire non certo, a meno che la Gelmini non abbia la bacchetta magica, non certo che riducendo il numero degli insegnanti si aumenta il tempo pieno. È evidente che questo porterà a della riduzione dei servizi, alla riduzione degli insegnanti ausiliari per i ragazzi handicappati, una riduzione del tempo pieno. Meno laboratori. I ragazzi stanno occupando le università, stanno occupando gli istituti superiori, i licei. Ecco, e fanno bene. Ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12:45.